La Bibbia è stata definita una lettera d'amore redatta da Dio per l'uomo. Alcuni hanno dei dubbi in merito perché in essa sono descritti dei racconti agghiaccianti e dei comandamenti che, all'apparenza, sembrano tutt'altro che d'amore. Tanto per citare un solo caso, leggiamo nel libro dell'Esodo le seguenti leggi sociali. Se alcuni vengono a lite e percuotono una donna incinta così da farla abortire ma non ne segue altro danno, il percotitore sarà multato in base a quanto il marito della donna gli imporrà, egli pagherà l'indennizzo come determinano i giudici. Ma se ne segue danno, darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione, Esodo 21, 22, 24. Queste leggi vengono ricordate dai detrattori della fede cristiana come leggi spietate e dure. Ma se teniamo presente che al tempo di Mosè non c'era l'assistenza sanitaria, non c'erano enti che ripagavano chi era leso, vediamo che l'ordine di Dio di richiedere in caso di danno non oltre ciò che si aveva subito, e cioè occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione, e di conseguenza scorgiamo nella legge di Dio un atto di giustizia e d'amore rivolto a entrambe le parti. Era un atto d'amore proteggere chi aveva recato danno, come era un atto d'amore da parte del danneggiato non chiedere più del dovuto. La legge di Dio non ordinava a nessuno di chiedere l'indennizzo, ma nel caso che qualcuno avesse voluto far valere i suoi diritti, allora il danno doveva essere punito con una identica perdita o lesione fisica. La legge di Dio ha sempre mirato a restringere il peso della pena entro i giusti termini e limiti. Così come è difficile comprendere sempre l'amore di Dio, è altrettanto difficile poter riassumere in poche parole il suo messaggio trasmesso in tutta la Scrittura. Spesso, quando si parla dell'amore di Dio, si dimentica di presentare anche la sua giustizia. Se si parla del giudizio di Dio, non sempre viene messa in enfasi anche la sua grazia offerta a tutti gli uomini. Non tutti hanno la capacità di sintesi, ma quando si leggono gli scritti degli apostoli si rimane meravigliati di come a volte siano stati capaci di sintetizzare in poche parole il volere di Dio. Nel limite della mia comprensione ho trovato il riassunto del messaggio di Dio in un'affermazione dell'Apostolo Giovanni contenuta nel suo Evangelo al capitolo 3 e versetto 36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. In questo asserto è detto cosa fare per essere salvati, cosa fare per essere perduti e le conseguenze della perdizione. Questi tre aspetti non possono essere certamente trascurati perché non si tratta di interessarsi di opinioni o faccende transitorie e vane, ma si tratta della salvezza della propria anima. Sia che si creda all'aldilà oppure no, il testo citato è da prendere seriamente in questione anche solo per il fatto che ha il 50% della probabilità di sostenere la verità. La prima parte dell'affermazione di Giovanni dice che chi crede al Figlio ha vita eterna. Questa proposizione è composta di 7 parole, della quale la prima è chi. Parlando di vita eterna, Dio si rivolge iniziando con un chi, cioè a tutti. Dio non è iniziato con il nome di una persona o di una religione perché la salvezza sarebbe solo per alcuni, ma iniziando con un pronome relativo, come il chi, la salvezza è offerta a tutti. Questo fatto esclude la possibilità che la salvezza sia offerta solo ad alcuni, o che solo alcuni siano chiamati a salvezza. Per l'organizzazione dei testimoni di Geova, i salvati sono solo coloro che appartengono alla loro associazione, come pure per il cattolicesimo. Per quest'ultimo la salvezza è solo per chi ha comunione con il Papa. Non vi è niente di più estraneo nel pensiero di Dio, perché Cristo è morto per tutti, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Inoltre, nel pronome relativo chi, vi è il povero, il ricco, il colto e l'ignorante. La parola di Dio non ha mai affermato che la salvezza si ottenga per opere o perché si appartiene ad una religione. La seconda parola che troviamo nell'affermazione del Vangelo di Giovanni è crede. Questo verbo esprime la condizione per essere salvati. Non sta a noi uomini stabilire le condizioni per ottenere la salvezza dell'anima. ma queste sono state dettate da Dio, e secondo il Vangelo, la salvezza si ottiene solo per fede. L'uomo non ottiene la salvezza mediante le opere o perché lo decide qualcun altro, come un capo religioso, ma la salvezza dalla perdizione eterna la ottiene chiunque crede. Un giorno i giudei chiesero a Gesù cosa dovevano fare per compiere opere di Dio ed egli rispose: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato», Giovanni 6:29. La terza e quarta parola nell'affermazione di Giovanni al capitolo 3 e versetto 36 è nel Figlio, parole che esprimono l'oggetto della fede. Secondo il Vangelo, l'oggetto della fede che salva è Cristo Gesù e non Buddha, Maometto, il Papa o Lutero. La Scrittura non dice neppure che è salvato chi crede in Dio, perché credere in Dio non è un grande atto di fede, visto che anche i demoni credono in Dio. La volontà di Dio è che la fede venga posta in Gesù Cristo quale Figlio di Dio, quale Salvatore, quale padrone della propria vita. Credere che Gesù Cristo sia un grande uomo, un profeta, il Messia, non è la fede che salva. La fede che salva è credere nel Figlio, cioè credere in Lui, nella sua persona, in ciò che Lui ha detto. La quinta parola è il verbo ha. Questo verbo, espresso al presente, esprime la conseguenza immediata della fede. Nella Scrittura ci sono delle promesse future, ma per quanto riguarda la salvezza dalla perdizione, Dio parla sempre al presente. Chi non è salvato ora non è salvato neppure nel futuro. Chi non è certo di essere salvato ora può essere certo di avere la possibilità di essere perduto. Chi pone una fede salvifica in Cristo non deve aspettare la morte per sapere la condizione della propria anima, ma fino da ora conosce già il suo futuro. La sesta parola è vita. Questo termine mette in rilievo il premio per chi pone fede in Cristo. La Bibbia dice che chi crede in Cristo Gesù ottiene ora la vita, e questo significa che gli uomini non hanno la vita. Com'è possibile che gli uomini non abbiano la vita quando nascono, piangono, lavorano, generano e muoiono? Quando la parola di Dio parla di vita in relazione alla salvezza, vuole intendere che gli uomini sono separati da Dio e questa situazione viene chiamata morte. Così, la vita è avere comunione con Dio, la morte è la separazione da Lui. La settima parola è il termine eterna. Questo termine esprime la qualità della vita che Dio dona a chi crede nel Figlio. Chi crede in Cristo Gesù ha ora la certezza di avere la vita, cioè una comunione con Dio, e questa vita è eterna, cioè senza fine. Questo significa che chi è stato riconciliato con Dio lo è per sempre, ed il credente può affermare senza peccare di orgoglio che è certo di andare in cielo perché, come sta scritto, i doni e le vocazioni di Dio sono senza pentimento. Romani 11:29, dille. La seconda parte dell'affermazione di Giovanni 3:36 inizia con un ma, una congiunzione avversativa. Infatti, mentre nella prima parte Giovanni ha detto cosa si deve fare per essere salvati, ora esprime ciò che si deve fare per essere perduti e di nuovo inizia con un chi, un pronome relativo. Così come è aperta la possibilità a tutti di essere salvati, così tutti possono essere perduti. Chi sono i perduti? Giovanni lo esprime con un verbo, chi rifiuta. Un rifiuto è possibile solo se ci è un invito alla libertà di scegliere. Scegliere che cosa? Chi rifiuta di credere? Il motivo della condanna non consiste nel rifiutare di compiere opere o di appartenere ad una religione, ma nell'incredulità. Come la fede è indispensabile per la salvezza, così la mancanza di questa porta l'uomo alla perdizione. Fede in che cosa? Giovanni lo dice chiaramente, chi rifiuta di credere al Figlio. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, è l'oggetto della fede e della salvezza, ma è anche l'oggetto della condanna per chi non crede. Non tutti hanno compreso che la persona di Gesù non è entrata nella storia in modo neutrale, ma la sua persona impone una scelta. La non scelta è già un atto di condanna. Quali sono le conseguenze di chi non crede nel Figlio di Dio? La Scrittura lo dice. chiaramente per non illudere nessuno, non vedrà la vita. Non vedere la vita è la conseguenza del rifiuto di credere nel Figlio, e nei termini biblici significa non essere in comunione con Dio, non godere della felicità e della pace. Non solo, la Scrittura, oltre a ricordare che chi non crede nel Figlio non vedrà la vita, presenta anche l'ira di Dio. Nessun Vangelo è completo se non presenta anche questa caratteristica del Dio d'amore. Dio ama, ma per chi rifiuta il piano d'amore non rimane che il suo giudizio. A questo punto Giovanni introduce un verbo di una importanza basilare. Resta. Infatti nel dire che chi non crede nel Figlio l'ira di Dio resta, egli vuole mettere in enfasi che tutti gli uomini per nascita sono peccatori e perduti, e non che Dio si vendica nei confronti dell'incredulo mandando il giudizio. Non è Dio che manda all'inferno gli increduli, essi dalla nascita sono già incamminati verso la perdizione. Cosa fare allora per essere perduti? Nulla. Si è già perduti. Infine, come dice Giovanni, l'ira di Dio resta su di lui. Significa che l'incredulo quando muore non potrà compiacersi del fatto che non è il solo ad essere perduto, ma proverà appieno il dolore della condanna. Questo è il riassunto del completo messaggio del Vangelo. Passeranno i cieli e la terra, ma dalla creazione in poi, nonostante gli uomini abbiano inventato tante religioni e tanti evangeli, vi è una sola fede e un solo evangelo. A nulla serve credere ciò che combacia con i nostri punti di vista, ciò che più ci piace o soddisfa le proprie voglie. 2 Timoteo 4:3, 2 Pietro 3:3, perché la vita non cambia. L'eternità non è solo una parola, ma una realtà che sarà tremenda se siamo perduti. Stupenda se siamo salvati. La nostra scelta di oggi alla lettera d'amore indirizzataci da Dio determina l'eterno futuro. Aprile 2005. Ellero.